Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. La battaglia per l'occupazione passa attraverso l'assunzione dei figli dei miei elettori. Ma è vero, ma come? Infattamente, se tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Se tu non mi voti, intuculati a te e tutta la famiglia. Ma, e bo, e ba, e be, e bi, e bo, e bu, e bo, e ba, e be, e bi, e bo, e bu. Kiss me. Bésame. Embrasse moi. Kiss me. Baciami. Ba, ba. Baciami piccina con la bo, bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Ma questi baci a chi li devo dar? Ma di cosa stiamo parlando? Voglio dire, ma il leader di Falanga, Verdini, ha 5 processi in corso e l'ultima condanna è di 50 giorni fa per concorso in corruzione e va a parlare di prescrizione con Renzi. Ma cioè, siamo veramente al delirio in questo paese. Cara sillaba com'è. E biblia ubia iblia ubia uba. Sono tanto deliziose queste sillabe d'amore. Come se avessimo Totorina con Alfano che si mettono a discutere di come riformare il reato. Guarda che tu rischi, cioè, questa è un'immagine che mi può venire, ma ovviamente non è un paragone. Cioè, piccola, questo piccola, delirio, piccola, quindi piccolina, di riforme sulla bambina. Prescrizione si parla con chi non ha processi in corso. Tanti baci in quantità. E baciami piccina, bella piccolina. Bimbo birichino, tu sei bello e sbarazzino, quale tentazione sei per me. Allora, lasciamo Totorina al suo posto, per favore. Scusi, scusi Paola, la signora sta parlando con me intanto e sto parlando io di prescrizione e non le consento di dire che io non posso parlare di prescrizione perché il mio leader ha dei procedimenti. Peraltro io sto dicendo che voglio le sentenze anche del mio leader, però voglio le sentenze come le voglio anche del sindaco di Quarto o dei sindaci e degli amministratori di 5 Stelle. Hai capito, piccola, come sta la storia? Falanga, le sentenze arrivano sempre. Hai capito com'è la storia? Ma questa tentazione che cos'è? Via va e via be. Cara Silla, che bello vedere la Paola, la Paola è la nostra Paola, la Paola Saluzzi che combatte con Ciro Falanga e la piccolina, piccina, piccolina, bambina, è la Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle. Capito, bambina, bambina, piccola? E baciami piccina, bella piccolina. È effettivamente il paragone, diciamo l'accostamento Verdini-Rina. L'accostamento era un po' forte, eh? Forza signori, forza, che è venerdì, oh. È venerdì, urliamolo tutti insieme, Milan. È venerdì, viva Milan, viva Radio 24. Piccina con la bocca piccolina, dammi tanto. Allora, vuole essere il primo il nostro amico Jesco che ci ascolta sempre dalla Siberia, ragazzi, non è uno scherzo. Una volta l'abbiamo anche invitato, ti arrivi un grosso abbraccio, Jesco, in Siberia, se non sbaglio a Krasnoyarsk. Ci segue da lì. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Ci stanno ascoltando a Krasnoyarsk. Chissà se a Krasnoyarsk c'è da 30 anni il conflitto tra politica e magistratura. Io, se volete, anche oggi ne parlo, parto da qui, Mi sembra un già sentito, un già detto negli ultimi 30 anni, però fate voi. E bi, e ba, Cirano vi dirà. Vabbè, certo, arriva il messaggio. Milan, dici in anteprima chi è l'inquisito del PD di oggi. Dai, non farci aspettare i telegiornali. Effettivamente è un periodo un po' così, Mi permette subito di salutare Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Ciao Massimo, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Volete farlo voi? Vuoi farlo tu oggi? Cos'è che titolate nel Giro d'Italia? Giro d'Italia del PM. Fa tappa sempre, fa sempre tappa dal PD, tocca sempre al PD. Aspetta che te lo dico bene. È un periodo così. Sono quei momenti in cui ti va tutto storto. Il Giro d'Italia dei PM fa sempre tappa dal PD. Ah, vabbè, vabbè. Sono momenti... Capita. Era evidente. No, ma non è che capiti. Dai, diciamo la verità. È che in questo momento il PD è al potere, al potere in un certo modo. È anche una cosa un po' statistica, no? Cioè, quando tu governi così tanto, è chiaro che insomma le inchieste ci sono. Certo. Vabbè. Comunque, insieme a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, saluto anche tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, Luca dall'Oltrepò Pavese. Anche in Friuli è venerdì, anzi ci scrive l'ascoltatore, è beverdì, ma sarà un errore di, come dire, di battitura. Babbarie, queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una B solo, la seconda con due B. Due B. Voglio salutare Vladimir Luxuria, buongiorno. È una persona molto sensibile, certo. Ha un sentire, come dire, delicato. Eccola qua, la nostra, Vladimir, come stai? Guerriero. Bene, guerriero, grazie. Della libertà. Mi è molto piaciuta la canzoncina iniziale, di Baciami Picci. Però bisogna fare attenzione alle piccoline, perché c'è una canzone invece di Fred Buscaglione che dice ripiccole, e poi alla fine però viene sparato da questa piccola. Quindi, attenzione che le piccole possono essere pericolose. Possono essere anche pericolose, effettivamente. La Giulia Sarti è una bolognese, di quelle che non si tiene dentro niente, dice Verdini, Comerina. Vabbè, insomma, effettivamente l'onorevole Falanga non se l'è presa bene. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento. Caro Peter Bescapè in regia, meno sei al raduno. Sai che cosa, Massimo De Manzoni, il nostro alpino Peter Bescapè, meno sei, e di che conta? Il 10, no? E certo, ad Asti. Sì. Poi 13, 14, 15 mi dice, in realtà sono le date. È giovedì parto, mi ha detto l'alpino Peter Mescapè, giovedì parto, chissà come torna. Beh, adoro gli uomini con le piume in testa. grande endorsement. Grande endorsement di Vladimir Luxuria per il nostro alpino, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione. Allora, no, dai, poi ne parliamo di politica e magistratura. Però io dico, ma siamo un paese in cui, secondo me, poi magari non voglio prendermi, come dire, l'applauso facile del pubblico, ma una cosa come quella che ha detto Boeri, e cioè il presidente dell'INPS, i vitalizi dei politici che costano 196 milioni di euro l'anno, se venissero calcolati con il contributivo risparmieremmo cioè 76 milioni l'anno. Ma è una cosa, cioè non è che Boeri ha detto facciamo al vitalizio dei politici una cosa che non facciamo agli italiani, no, ha detto facciamo del vitalizio dei politici ciò che succede a tutti gli italiani normali, o no, De Manzoni, o sbaglio? Cioè una cosa dovrebbe essere normale, ovvia, e si sta a discutere, si sta anche Vorrei dire che un anno fa abbiamo fatto un'inchiesta dimostrando deputato per deputato quanto guadagni dovrebbe con il contributivo invece che col contributivo con il retributivo, per cui cioè, arriva anche tardi e scopre l'acqua calda. È vero, dopodiché sono tutte denunce che rimangono in che non hanno effetto. L'anno scorso quando facciamo questa inchiesta ci fu un coro, il Presidente del Consiglio ci diede ragione, uno dei suoi collaboratori principali all'epoca, che si chiamava Richetti, presentò un disegno di legge garantendo che in giro di pochissimo tempo questo scempio sarebbe stato sanato. Hai visto qualcosa? No, abbiamo visto Boeri che ieri ha ridetto le stesse cose che il mio giornale aveva messo. Avevamo fatto un'inchiesta che era durata quasi un mese. Sì, ma mi ricordo che c'era il raffronto tra quanto prendeva e quanto dovrebbe prendere. Però io dico, ma voglio dire, è un paese un po' strano nel quale si discute di una cosa che dovrebbe essere ovvio considerare, a meno che non siamo nella fattoria degli animali, perché magari, Vladimir, siamo nella fattoria degli animali, c'è qualcuno più uguale degli altri, non lo so, giusto per sapere. Ci sono le galline bianche in questa fattoria che se la vedono meglio. Beh, diciamo che ogni volta che parla Boeri c'è qualche politico che trema, qualche ministro che trema, perché poi alla fine dice la verità. Sì. Da questo punto di vista lo dico, lo premetto subito, sono veramente contenta di non prendere il vitalizio, di non prendere, infatti, la pensione. Lo volevo dire io. Ex parlamentare, perché effettivamente c'è un sistema pensionistico troppo privilegiato nei confronti, beh, non solo dei politici, anche dei grandi dirigenti statali, magari anche quelli che hanno portato in fallimento anche grandissime aziende pubbliche. No, perché ricordiamolo, Vladimir Luxuria fa parte di quella legislatura dove per la prima volta cambiarono le regole e se non arrivavi a metà legislatura non prendevi il vitalizio. Insomma, mi pare di capire che è così, è quella che è caduta con Prodi. Insomma, sfigata, va bene. No, invece tu dici fortunata. No, però... no, non, guarda, credimi, uno può dire ma sta mentendo, credimi, dato che c'ho mio padre che prende 700 euro di pensione. Sì. Mi sarei sentita un po', per la prima volta, un po' in imbarazzo, diciamo, in imbarazzo nei confronti di mio padre, mi sembra, che ha fatto l'autotrasportatore per tutta la vita, si è fatto un mazzo così e prende quella pensione. E io, solo per poco tempo di parlamentare, avrei preso una pensione molto più alta della sua. Mi come sarei no? sentita, la prima volta che mi sarei vergognata davanti a mio padre. Eccolo lì. De Manzoni, quanto avrebbe preso, credo, prima legislatura? Magari 3.000 euro, credo, una roba del genere, no? Sì, no, forse, una roba del forse, genere. Forse un po' meno, 3.000 lordi. Però possiamo tranquillizzare, Vladimir, non trema nessun politico quando parla. No, esatto, perché il problema è non tremano, perché tanto, voglio dire, non succede niente, come dimostra lo scontro da 30 anni politica-magistratura. No, ma non succede niente, spieghiamolo, abbiamo già detto, anche per una questione tecnica. Chi deve decidere del taglio eventualmente o del ricalcolo dei vitalizi è il Parlamento stesso, cioè non è Boeri, non dipende dall'INPS, no Massimo? Non sono pensioni erogate dall'INPS. È la Camera e il Senato che hanno assoluto potere su se stessi. C'è anche un termine autodichia, è uno straordinario termine in altri casi che è diventato odioso e odiato da tutti. Quindi non cambierà nulla, però è incredibile, cioè che per me è incredibile che si discuta di una cosa che dovrebbe essere ovvia, cioè considerare tutti i cittadini italiani uguali. Eppure è così. Vabbè, cara Vladimir, il Partito Democratico ieri vicino ha detto Renzi è disperato, lui è un po' così, insomma, le gioca anche senza rete, perché dice che ogni giorno ha la sua pena, nel senso di PD e qualcuno che viene inquisito. Ora è toccato a Soru, condannato per evasione fiscale. È davvero così, Vladimir? Lo vedi in difficoltà, Renzi, da questo punto di vista? Allora, io faccio parte di quelle persone che pensano che l'avversario, chi non la pensa come te politicamente, dovrebbe essere sconfitto per una questione di idee, non in base a delle sentenze. E non faccio parte di quelle schiere di persone o di giornalisti che sono garantisti o colpevolisti in base a esponenti di partiti politici. Sì. Bisogna esserlo coerentemente con tutti. Faccio parte di quelle persone che aspettano il lavoro della magistratura, che può sbagliare e spesso sbaglia, e che aspettano soprattutto il terzo grado del processo. Cioè, sei garantista da sempre. Per me una persona indagata non vuol dire che è una persona già condannata. Aspetto e poi dopo commento eventualmente il fatto che una persona possa essere stata, ripeto, condannata in via definitiva. Sì. Però effettivamente oggi, Massimo, voi titolate, cioè meglio il direttore Maurizio Belpietro, parla di, come dire, ora si riscopre il partito dei giudici, no? Effettivamente questo garantismo a fasi alterne è un po' così, se fa comodo perché c'era Berlusconi è una cosa, adesso che fa comodo dire un'altra cosa perché c'è Renzi fa comodo un'altra cosa. Questo è indiscutibile. Intanto noi siamo andati avanti per anni a sentirci raccontare di una superiorità morale, genetica addirittura, di una parte politica nei confronti di quell'altra. È francamente una cosa che faceva ridere solo a dirla, eppure se siamo riusciti a sentirla e a dirla rimanendo seri per molto molto tempo. E poi sì, appunto, le meraviglie che si manifestano adesso sono fuori luogo, perché questa è una storia che sta andando avanti da oltre 20 anni in questo paese, dove ci sono delle esondazioni di questo fiume importantissimo che è la magistratura. Il problema è che se esondava sulla sponda destra, quelli della sponda sinistra non avevano mai niente da dire perché stavano all'asciutto. Adesso hanno i piedi bagnati anche loro e si accorgono che ci sono delle cose che non funzionano. Ci sono delle ordinanze, per esempio, magari giuste, sacrosante nella sostanza, tipo l'ordinanza d'arresto del sindaco di Lodi, stava cercando di inquinare le prove, è uno dei casi in cui in Italia si dovrebbe poter arrestare in maniera preventiva. Noi lo facciamo anche quando non ci sono queste condizioni, ma questo è un altro discorso ancora. Però certo che se in ordinanza poi ci si fa un ritratto psico-attitudinale del soggetto, si sta esondando. E quando poi questo soggetto confessa, viene a cessare l'esigenza di custodia cautelare, per cui si aspetta che un minuto dopo venga liberato, cosa che ovviamente non è stata. Però quando effettivamente... Quando un consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura si mette a pontificare di politica con un giornalista e spiega come qualmente un politico vada fermato, è chiaro che non siamo nel campo del lasciamo lavorare i magistrati, ma dobbiamo prendere quel magistrato e farlo smettere di lavorare. Anche se poi ha smentito d'avere detto quella frase. Quella è smentita, ma non era un'intervista. Era un colloquio. Un colloquio informale. Un colloquio informale. Però sono 20 anni che succedono queste cose. Lo so. Appunto. Sono 20 anni. Comunque, ricordo sempre a tutti, soprattutto a chi riveste un ruolo di potere, che non esistono colloqui informali con i giornalisti. Ecco, appunto. Si possono avere colloqui informali con le mogli, con le amanti, ma con i giornalisti no. Con i giornalisti no. Categoria cattiva, che poi cattivoni che scrivono le cose che vengono a sapere, incredibile, questi cattivoni, no, che fanno questo mestiere qui. Dobbiamo però andare al traffico, vorrei capire poi che ne pensate. Secondo me Vladimir Luxuria avrebbe bruciato il libro di Salvini, sto scherzando ovviamente, però insomma c'è chi brucia il libro di Salvini. E insomma torniamo, altre notizie qui a 24 mattino, state qui. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo, vai. Milan, aspetto sempre che tu inviti qualcuno pro Renzi. Mi spiegate perché un magistrato, un giudice deve essere eletto in area PD? Questi sono i problemi, non devono essere politicizzati. Vorrei capire, ma qual è quel presidente del Consiglio che vi va bene a voi giornalisti? Berlusconi no la guerra, Monti no la guerra, Letta no la guerra, e quest'altro lo state a mettere in croce. Ma allora, chi vi va bene? Volete il Padre Eterno? Alessa, io ti ascolto tutte le mattine, ma spesso mi fa rabbia, ti verrai a menare come dice quella signora. Spesso mi fai rabbia, però ti ascolto uguale. Buona giornata. E Omila Maria, sono Anacrete, stammi a sentire. Dicevo, l'integrazione della tua 48 ore in Toscana, ti vorrei aggiungere un massaggio, anzi facciamo che è già organizzato, un bel massaggio a quattro mani, di quelli giusti, ma Dio giusti, hai capito? Mi raccomando, pensaci, ciao! Va bene Anacleto, il fiorentino mi invita in un bel weekend in Toscana. Non so Vladimir, dopo che mia moglie ha sentito quest'ultimo invito col massaggio a quattro mani, credo che debba saltare e devo spiegare al fiorentino che certe cose... Se me fossi le... tua moglie, ecco, quante botte ti darei. Va bene. Allora, io prenderei quelli che hanno strappato il libro di Salvini a Bologna, prenderei le pagine strappate, gliele farei mangiare, così democraticamente, io Vladimir Luxuria così, democraticamente, che dici, sono troppo duro? A mangiare la carne. Si dice che il libro è cibo per la mente, quindi... Appunto. Dai, tu, allora, tu che non leggerai mai il libro di Salvini, per questo neanch'io, boh, cioè non ci sono letture. Guarda, secondo me la casa editrice della biografia di Salvini sta facendo salti di gioia, perché è chiaro che hanno fatto un'operazione di pubblicità incredibile. Questo sì, però dai, sono dei cretini, cioè, diciamolo francamente. Guarda, io non mi piace nessuno che brucia, che distrugge un libro, a parte non serve a niente, ripeto, è solo una pubblicità. Ognuno deve essere libero di poter leggere il libro che vuole, credo che sia l'operazione più antidemocratica, devo dire, proprio di stampo anche un po' nazista, che ricordo che bruciavano i libri nella piazza, ma anche potrei dire che un po' fondamentalista islamico, proprio, sono questi di atteggiamenti. Ma sì, se c'è una cosa che critico del libro di Salvini è un po' di mancanza di umiltà, almeno nel titolo, perché uno che scrive una biografia che si chiama Secondo Matteo mi dà un po' l'idea come se avesse scritto un Vangelo, ecco, come almeno dire, su quello, ecco, anche un po' meno Matteo, un ecco, po' meno, effettivamente. Massimo, il titolo insomma colpisce, però vabbè dai, cosa, no, come beh, dobbiamo... i titoli sono fatti per colpire, ma sì, non è certo come lo dobbiamo derubricare, no, però sti cretini, c'è un altro problema, cioè, c'è un problema al di là dei libri, che ovviamente è la cosa che fa più scandalo in questo momento, ma c'è un problema che questo, cioè, c'è un leader politico che ormai in Italia non riesce più a parlare in pubblico, perché ogni volta viene contestato, scoppiano battaglie, guerriglie, feriti, normalmente tra i carabinieri o gli agenti che sono costretti a intervenire in sua difesa, ma non si sente nessuno dal Presidente della Repubblica in giù che dica, ma guardate che non è che si fa così, si ascolta una persona e poi si dice non sono d'accordo con te, si legge un libro anche per dire, no, ma sono d'accordo, ma Salvini è uno che non fa mai sconti sui toni, però questo non giustifica minimamente il fatto che uno, però ecco, devo dire una cosa, Massimo, non sono invece d'accordo su una cosa che avete trattato come tutti i giornali e oggi messa in prima pagina, cioè questa ragazza che col velo, perché islamica, ha chiesto di essere assunta, penso dare dei volantini, niente di che, ha chiesto di essere assunta, l'azienda gli ha chiesto ma lei sarebbe disposta a togliersi il velo, ha detto no, io non mi tolgo il velo, e è stata condannata dal giudice l'azienda che ha discriminato questa ragazza e ha detto insomma questa azienda ha sbagliato. Però Massimo, allora, cioè, in Francia, in Gran Bretagna ci riderebbero dietro di fronte al fatto di dire o ti togli il velo, non è un burka, non è un sì, velo sì, sulla testa, sì, cioè col viso assolutamente. Allora la cosa andrebbe portata nelle sue proporzioni, a parte che in Gran Bretagna io riderei dietro ai britannici che invece consentono che le donne medico vengano discriminate dai pazienti islamici, perché perché così succede, cioè un paziente islamico la donna non può essere, no, il medico non può essere donna, che è una cosa, sì, però effettivamente che male fa il velo di quello che ci ridono o non ridono in questo caso me ne fregherei abbastanza, ma qui bisogna contestualizzare la cosa. L'azienda in questione aveva selezionato delle ragazze in base a certi criteri per un certo tipo di evento in cui le ragazze devono anche essere tutte alte uguali, da quello che ho capito io, una specie di coreografia, adesso non sì, vabbè, insomma, sono addentrato, che non prevedeva che una di queste ragazze avesse il velo, perché doveva avere tutte quante i capelli... E quindi... come se ti scritturano per un film in cui devi essere biondo e dici no, io sono moro, questo film non mi muovo, allora d'accordo da un'altra parte e ingaggio qualcuno che accetta di essere, è arrivata la discriminazione, di biondo, la condanna per discriminazione, comunque, ma comunque mi sembra che la funzione, quello che doveva fare la ragazza era distribuire dei volantini. Insomma, anch'io l'ho capito, questo su altri giornali. Allora, insomma, non è che uno può dire scelgo le bionde, scelgo le more, oppure discrimino chi non mi fa vedere i capelli. Sinceramente, se una ragazza fa vedere il viso, quindi è riconoscibile, ha un velo che le copre solo i capelli, sinceramente non riesco a capire dove può essere il problema. Se una è simpatica, riesce a sorridere, è affabile e riesce a consegnarti il volantino, magari anche a fartelo leggere, non capisco perché deve essere punita perché porta il velo. In Gran Bretagna voglio ricordare che c'è un candidato sindaco musulmano molto aperto, che probabilmente diventerà il sindaco di Londra. Questo vedremo. Però tu che farai alle 9 su Radio Capital col Geco e la Farfalla, cara Vladimir? La notizia del giorno, dai, dici la notizia di cui approfondiamo. È una notizia un po' pesante, perché in realtà è una notizia di cronaca. Oggi commenteremo il caso di un ragazzo gay suicida a Bari, che si è buttato sotto un treno, aveva 19 anni, perché quando ha fatto coming out con i genitori adottivi gli hanno detto: se l'avessimo saputo non ti avremmo preso dall'orfanatrofio. Oh, e quindi, insomma, chiedere un che vero, fare un'indagine per vedere se nelle pratiche per avere l'idoneità di coppia per adottare sia prevista anche una domanda su, sull'apertura mentale, almeno su questi temi. Bene, allora io vi ringrazio, Vladimir Luxuri alle 9, vi ricordo, e grazie a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Alle 7:19 minuti è venerdì, signori, è la 157esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, se ne va via così. Le mie lunedì, le venerdì. In un lampo se ne va, ma la 158esima è alle porte, un referendum si avvicina e chi lo sa, chi lo sa. Allora, cari ascoltatori, oggi parleremo di quello che è successo a Caivano. La vicenda, insomma, dolorosa della piccola uccisa 2 anni fa, e si è scoperto per un presunto caso di pedofilia che ha coinvolto anche un paese, si è parlato di omertà, insomma, cercheremo di capire qualcosa di più di questa storia molto dolorosa, questo dopo le 8:30, ma parleremo di tanti altri temi che sono sui giornali e che andiamo a sfogliare in questo momento. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo venerdì 6 maggio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore sui crediti deteriorati delle banche, Visco, la BCE non spinge per la vendita degli NPL, questo è il titolo di prima pagina. E poi due le grandi notizie che catalizzano le prime pagine dei giornali, e cioè Renzi, Merkel, prove d'intesa, questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica, Renzi, Merkel, Vienna sbaglia, ma resta il no sugli eurobond. Ovviamente si parla della gestione dei migranti. Per La Stampa, migranti no ai muri, ma tra Renzi e Merkel l'intesa è solo a metà. Il Messaggero, migranti, Merkel dice sì a Renzi, Avvenire no all'Europa a pezzi. E poi c'è la questione politica magistratura. Per Libero, il Giro d'Italia dei PM fa sempre tappa dal PD. Questa volta condannato Soru per evasione fiscale. E anche il Fatto Quotidiano, anche Orlando contro i giudici. 3 anni a Soru, PD per evasione. Mentre l'Unità, l'editto di Morosini. Morosini è il magistrato che ieri, parlando con il Foglio, in un'intervista poi smentita dal magistrato, derubricata a colloquio informale, confermata da Annalisa Chirico, giornalista del Foglio. Insomma, Morosini avrebbe detto, in questo che era il titolo del Foglio, Renzi va fermato. Per la verità, questa frase anche la stessa Annalisa Chirico conferma non è stata pronunciata così, è stata la sintesi di un titolo. Comunque, come vedete, politica e magistratura, le polemiche continuano. Però a proposito di magistratura, voglio partire da questa sentenza che fa discutere sui giornali. Ne parlano tutti. Il velo, non la assumono, e il giudice dice va risarcita. Luigi Ferrarella racconta, pagina 19 del Corriere della Sera, ma ripeto, tutti i giornali dedicano almeno mezza pagina a questo tema. Per ora c'è solo il dispositivo della sentenza, non c'è ancora la motivazione, ma la sezione lavoro della Corte d'Appello di Milano, ribaltando la decisione di primo grado del Tribunale di Lodi, ha dichiarato discriminatorio il comportamento di un'azienda di ricerca del personale che nel 2013, dovendo selezionare ragazze per un volantinaggio di 2 giorni, alla fiera di Milano, alla fiera dell'evento calzaturiero MICAM, aveva rifiutato di inserire nella selezione una lavoratrice italiana di origine egiziana e musulmana di religione a causa della sua indisponibilità a togliere il velo. La studentessa spedì una foto nella quale indossava il hijab, che incornicia il volto coprendo capelli, orecchie e collo, e l'agenzia che stava selezionando le ragazze, Evolution Events di Imola, le chiese se fosse disposta a scoprire il capo lasciando vedere i capelli. La giovane rispose che portava il velo per motivi religiosi, che non aveva intenzione di toglierlo, al massimo avrebbe potuto abbinarlo al colore della divisa. Al rifiuto dell'agenzia di offrirle il lavoro, la ragazza reagì con il ricorso al tribunale di Lodi, e chiedendo l'esclusione per carattere discriminatorio per motivi religiosi e di genere. E ovviamente si è arrivati poi al primo grado, no, e invece l'appello ha dato a lei ragione. Non venne assunta perché portava il velo, i giudici dicono risarcitela, e qui, ripeto, c'è su tutti i giornali la notizia. Come su tutti i giornali c'era la notizia, vi ricordate, di Doina Matei, la rumena che uccise con un ombrello in un occhio Vanessa Russo. La polemica per le foto pubblicate su Facebook, la semilibertà ritirata, per questo meglio sospesa, è tutto rientrato. La semilibertà viene concessa nuovamente a Doina Matei. Ora avrà il divieto però di usare internet. Per il tribunale del riesame la ragazza rumena potrà tornare a lavorare fuori dal carcere. Il processo rieducativo è in corso, dicono i magistrati, nonostante questo errore evidentemente, e soprattutto è ribadito, non può usare internet, ma insomma la vicenda finisce così. Siamo un paese un po' strano, però devo dire, un paese in cui appunto da 20-25 anni, se non 30 anni, si parla di rapporto tra politica e magistratura, di conflitti eccetera. È un paese anche strano perché è un paese nel quale quello che ha detto Tito Boeri, presidente dell'INPS, che è una cosa ovvia, dovrebbe essere una cosa banale, e cioè perché non ricalcoliamo anche i vitalizi degli ex deputati, degli ex senatori, con il metodo retributivo come per tutti gli italiani? Perché non li ricalcoliamo così? Potremmo risparmiare il 40%, visto che paghiamo ogni anno 193 milioni di euro nel 2016, questa è l'ultima cifra, 193 milioni, potremmo pagarne 76 milioni. Un risparmio del 40%. Certo, Boeri non ha competenza su questo perché i vitalizi non sono erogati dall'INPS, sono decisi, e qualsiasi intervento sui vitalizi deve essere deciso in base all'autonomia delle Camere, che nessuno vuole toccare, da Camera e Senato stesso, appunto. Si chiama autodichia. Però Boeri, forse mettendo il dito nell'occhio di qualcuno, dice i vitalizi sono insostenibili, vanno tagliati. Sono 2.600 gli ex onorevoli che incassano il doppio di quanto versato. E tra l'altro si guadagna ovviamente pagine su tutti i giornali, immagino applausi degli italiani. Ma forse vorrebbe una cosa solo di buon senso, non gli applausi degli italiani. Tra l'altro il Messaggero, nel raccontare questa notizia con Diodato Pirone, dice i dipendenti della Camera invece, i dipendenti della Camera, versano in media un euro e ne ricevono quattro di pensione. E scrive Diodato Pirone, l'INPS del professor Boeri ha diffuso nei mesi scorsi i conti previdenziali dettagliati di molte categorie. Ma le pensioni di una nicchia di lavoratori molto particolare sembrano essere sfuggite alle occhiute e documentatissime analisi degli esperti dell'INPS. Parliamo dei 2.300 dipendenti di Camera e Senato. Perché almeno a giudicare dai bilanci delle due istituzioni, questo pugno di lavoratori italiani gode di un trattamento davvero particolare, perfino migliore di quello che il professor Boeri ha definito insostenibile, riferendosi ai vitalizi dei politici. Per capirlo, basta far due conti. Gli ex dipendenti della Camera assorbiranno nel 2016 270 milioni di euro, ma verseranno sotto forma di contributi meno di una settantina di milioni. In altre parole, la loro magica formula previdenziale è versi 1 e prendi 4 euro, ovviamente. Questo Diodato Pirone a pagina 11 è secondo me l'articolo più interessante a corollario delle denunce di Boeri che trovate un po' su tutti i giornali, eh? Su tutti i giornali le trovate. Vabbè, Libero la mette così, la casta ci frega 760 milioni coi vitalizi. A proposito di politici e stipendi, mettiamola così, sentite qui, l'ho trovato sul Secolo XIX, Matteo Indice racconta, pagina 7, quella che è la udienza in tribunale dell'ex cassiere dell'Italia dei Valori Liguria per il processo in cui sono imputati due ex vicepresidenti della regione e un ex diputato, che scelgono invece il silenzio, per spese pazze. Matteo Indice, basta la parola paghetta, paghetta. Mi ha incuriosito, cosa vuol dire paghetta? Eh sì, la paghetta. Quando Giorgio De Lucchi, tesoriere dell'Italia dei Valori ai tempi d'oro delle spese pazze, sfodera questo termine, descrivendo gli ex consiglieri della regione Liguria come bambini mentre fanno l'acquesto al guardiano del salvadanaio, ecco, l'aula si divide in un misto di risolini e brusio. Ha usato proprio questo termine il cassiere dell'Italia dei Valori Liguria. Signor giudice, io ci avrei pure provato a mettere a posto i bilanci del partito, ma i politici non rinunciavano, ecco, alla paghetta. Sì, la paghetta. E quando si è scoperto che il capogruppo prendeva il doppio, hanno cominciato a insultarsi uno con l'altro. Sembrava una guerra. Il doppio per il capogruppo. Immaginatevi voi il ruolo del tesoriere che viene a scoprire, quando vengono a scoprire quelli del suo partito che il capogruppo prende il doppio e quindi vogliono la paghetta e fanno la questua dal tesoriere. Ah, cari ascoltatori, è venerdì! Pensate questo di positivo, è venerdì. Pensate anche a questo, l'articolo che vince il premio Mani sul volante, e cioè l'articolo che mi fa pensare della giornata. È Sergio Rizzo che sul Corriere della Sera racconta la storia della galleria della Guinza, il mega tunnel mai finito e che ci è già costato 150 milioni, cominciato 50 anni fa sulla Grosseto-Fano, strada di congiunzione del Tirreno con l'Adriatico, tuttora una via immaginaria, manca un pezzo qua, un pezzo là, contratti a quattro corsie che improvvisamente svaniscono in tortuose strettissime provinciali e nessuno sa dire con esattezza quanto denaro abbia già ingoiato, ma di certo il primato mondiale delle incompiute è la Galleria della Guinza, il traforo più lungo mai realizzato e mai completato per una strada statale che non c'è e invece servirebbe come il pane. Quanto ci è già costato, secondo stime, almeno 150 milioni. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che... Col Milan, che è le mia che è del Berlusconi, ma il bar la plus dell'informazione. E va bene, allora cari ascoltatori, siamo come nella macchina del tempo catapultati ogni giorno sempre più indietro negli ultimi 30 anni, perché quando si parla di scontro tra politica e magistratura c'è quella sensazione di un già sentito, di un già letto. Eppure è successo che ieri al Foglio il magistrato Pier Giorgio Morosini, al CSM in quota Magistratura Democratica, cioè una delle correnti dei magistrati, la cosiddetta corrente delle toghe rosse, come viene definita in genere, ebbene ha detto, ha fatto un'intervista, per la verità Morosini dice era un colloquio informale, mentre Annalisa Chirico per il Foglio ha scritto questa intervista, conferma oggi all'Unità, mi sono seduta, convocata nel suo ufficio, mi sono seduta sul divanetto per un colloquio e ho preso il taccuino. Cosa fa una giornalista con un taccuino? Ovviamente scrive. Comunque, al di là di questo, poi Morosini dice non ho mai detto quello che c'era nel titolo, cioè Renzi va fermato. Perché Renzi va fermato? Questo era il titolo. Effettivamente Annalisa Chirico, in un breve colloquio non informale sull'Unità, pagina 2, dice... Effettivamente quella frase, Renzi va fermato, non l'ha detta. ha espresso però le stesse posizioni di Magistratura Democratica, che si è pubblicamente schierata a favore del no nel referendum costituzionale. E siccome il premier Renzi ha legato la sopravvivenza del suo governo all'uscita di quel referendum, per proprietà transitiva fermare le riforme significa fermare il governo Renzi. Comunque la frase così non l'ha detta, ma il titolo era un sunto del concetto. Comunque questo ha dato il via alle nuove polemiche. Certo, c'è il vicepresidente del CSM Legnini, dopo il caso Fanfani che aveva detto l'arresto del sindaco di Lodi è sbagliato, ora il caso Morosini. Insomma, Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, il presidente del CSM invece è il presidente della Repubblica, ricordatevelo. E quindi dice Legnini: ne ho parlato con Mattarella, ognuno deve tornare nei ranghi. Pagina 9 del Corriere, Fiorenza Sarzanini: a questo punto sarebbe davvero opportuno che ognuno rimanesse nel proprio perimetro istituzionale. Questo ha detto Legnini. Noi facciamo la nostra parte cercando di arginare e stigmatizzare iniziative personali che creano danni gravissimi. La scelta dunque di convocare un dibattito urgente viene presa d'accordo con il presidente Mattarella, così come la decisione di usare toni severi. E beh, comunque lo scontro ancora c'è. Anche Orlando Ministro dice: ora è necessario un chiarimento. In tutto questo la questione magistratura politica continua con un nuovo, una nuova tegola per il Partito Democratico. L'europarlamentare sardo Renato Soru, ex governatore della Sardegna, è, come stabilisce la sentenza del giudice Sandra Lepore, un evasore fiscale. 3 anni di carcere, grazie alle attenuanti generiche, uno in meno di quanto richiesto dal PM. Pesantissime le pene accessorie, confisca dei beni privati per un valore pari all'importo contestato dalla procura, cioè 2.613.000 euro. Interdizione da cariche direttive nelle imprese. Sono ovviamente sanzioni sospese sino a sentenza definitiva, una sentenza di primo grado. Comunque un'altra tegola sul Partito Democratico. Soru si è sospeso, è il segretario del PD in Sardegna. E ho letto queste notizie da Repubblica, pagina 6, l'articolo: Soru condannato per evasione fiscale. Lui dice: sono innocente ma mi dimetto. E in tutto questo c'è un'altra questione sempre legata alla giustizia, cioè il caso Lodi. Spunta tra l'altro, e torno sul Corriere della Sera, qui un nuovo filone dell'inchiesta. Cesare Giuzzi racconta a pagina 9 che il nuovo filone d'inchiesta, sapete che si indaga per turbativa d'asta per l'appalto di 2 piscine a Lodi. Ebbene, c'è anche un'altra piscina, una piscina olimpionica iniziata quando era sindaco l'attuale vicepresidente del Partito Democratico, Lorenzo Guerini. Spunta il secondo filone d'inchiesta. Lodi si indaga su una piscina voluta da Guerini quando era sindaco. E racconta il Corriere: dalle carte d'inchiesta che ha portato in carcere l'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, si indaga anche sulla piscina Faustina, impianto olimpionico costato 13 milioni di euro voluto dall'allora sindaco Guerini, oggi vice segretario del PD. E il titolo di reato per il quale procedono i magistrati lodigiani è frode in forniture pubbliche. Quindi questo è un nuovo filone che potrebbe arrivare fino ai vertici, non è vicepresidente ma appunto vice segretario Guerini del Partito Democratico. Insomma, il rapporto politica-magistratura è questo, e ogni giorno se ne parla sempre, sempre di più. Tanto che Tommaso Ciriaco su Repubblica riassume il momento un po' di difficoltà del Partito Democratico da questo punto di vista, dal punto di vista giudiziario: l'allarme a Palazzo Chigi, alle urne ora rischiamo. Questo è un virgolettato attribuito non a Renzi ma a vari membri del Partito Democratico, che un po' sotto traccia lanciano questa idea dell'assedio della magistratura. Ah, tra l'altro su Repubblica, proprio in questa pagina, a incorniciare quest'articolo, c'è l'anagramma di Stefano Bartezzaghi. È sempre straordinario, oggi lo voglio leggere. L'anagramma di Bartezzaghi: Renato Soru storna euro. E non male l'anagramma di Bartezzaghi. Ma signori, ma siamo in diretta anche sulla mia pagina pubblica di Facebook. Saluto tutti gli amici, mi trovate, Alessandro Milan. Non chiedetevi l'amicizia al profilo personale, ce ne sono due, la pagina pubblica, per favore, la pagina pubblica. Ora devo leggere però una pagina che mi ha molto colpito, è sul Fatto Quotidiano, la firma non è una qualunque, Beppe Grillo. Beppe Grillo firma oggi una pagina, pagina 20, nella quale tra l'altro usa anche le parole maiuscole, come Adriano Celentano, e che per cui insomma, vabbè, comunque vado a leggere. Allora, una lunga pagina parte dall'analisi della vittoria del Leicester nel campionato inglese. Lo sberleffo del Leicester al mondo fondato sul rating. E scrive Beppe Grillo: beh, il Leicester ha vinto il campionato inglese, anche se ormai definirlo inglese è pura geografia, le squadre sono quasi tutte di sceicchi arabi, e da qui si parte in un'analisi del soldo, il denaro, perché i soldi vincono sempre. E gli sfigati squattrinati condannati a scomparire, a perdere, a fallire, alla morte rapida e inevitabile! È scritto in maiuscolo, e quindi... condannati dal destino, dalla neofisica, ma anche da qualcosa di più definitivo, dal rating. Il rating divenuto dai broker. I broker sono quelli che ti dicono cosa avrà successo attribuendo un rating a un'azione, a un paese, a più, fanno gli oroscopi autoavveranti. Dice: a quel paese gli diamo BBB meno, come a scuola. E quando prendi meno, sei un deficiente che non farà mai nulla nella vita, sulla carta. Magari poi diventi Onassis e passi davanti alla tua scuola con la tua nave da crociera con scritto «Attaccatevi al...» E vabbè, c'è scritto a che cosa. Va bene, i broker, dice Grillo, e in base a questo i paesi falliscono. Eppure molti di quei broker, mentre mettevano BBB meno, avevano la moglie che stava a casa a letto col metalmeccanico di Ostuni, e alla moglie davano un'affidabilità di AAA+, sono sicuro, scommetto. Insomma, dice Grillo, gli aruspici sono un inganno. Un tempo venivano squartati quando sbagliavano le previsioni. Per esempio, chi avrebbe stabilito dei broker che avrebbe vinto Leicester, per l'appunto, ora ha vinto il campionato, mandando in vacca le Mercedes e gli impianti Sony di moltissimi broker che, tornati a casa di corsa per comunicare la notizia della bancarotta alla famiglia, hanno sorpreso la moglie a letto col metalmeccanico di Ostuni che aveva scommesso su Leicester. Vabbè, e continua così. Beppe Grillo, caro Mauro Meazza, Grillone. Sì, vabbè. Tu sei un broker? Buongiorno. No, non sono un sei broker. Sei un metalmeccanico di Ostuni? No. Guarda, potrei prendere una posizione intermedia. Sì, il broker è il metalmeccanico di Ostuni. Sei una moglie? No, non so, sono un marito, purtroppo, per questioni banalmente di come genere. Come no, di genere, no, voglio dire. Purtroppo. Ma perché tu hai fatto una battuta? Ti vorrei mettere un po' in difficoltà. Hai fatto una battuta sessista qualche giorno fa, vorrei sempre rimediare, sai, sull'auto senza guidatore, eccetera. Ecco. Senti, però a proposito appunto di previsioni per il futuro, ma non siamo broker, non so neanche se siamo metalmeccanici di Ostuni, però se tu oggi leggi con molta attenzione, come sempre, il Sole 24 Ore, tra l'altro a pagina 8, tra le tante cose che puoi trovare sul Sole, a pagina 8 ci sono due cosucce molto interessanti. La prima, ritornerai un attimo sull'ape. Sì. L'ape, non l'ape, quello che il sai veicolo, oggi la Camusso, la Camusso sul Corriere ha detto: spero che non sia una vespa fastidiosa per i pensionati. Battutona della Camusso. Ecco, va bene, io mi esimo di fronte a queste citazioni. Invece ti voglio segnalare che c'è questa possibilità appunto di fare partire l'anticipo di pensione legandosi però al reddito. Se lo spieghiamo a pagina 8, sempre alla stessa pagina 8 c'è il futuro, ma non del rating o da metalmeccanici di Ostuni. Ma perché di Ostuni? Vabbè. Non lo so, è scritto Grillo. Non so, ma perché c'è una fabbrica importante Ostuni? Ma non lo so, ma dai, non lo so. Allora, perché tutto il piano del governo, il cantiere del governo, viene riassunto in un lungo articolo e anche in una serie di schede in cui appunto segnaliamo che ci potrebbe essere un taglio dell'IRPEF, come ha detto il Presidente del Consiglio qualche giorno fa, ma anche si pensa di confermare la decontribuzione per i nuovi assunti, ma anche ovviamente l'APE, e poi anche delle misure fiscali per sostenere le famiglie numerose. E ancora altro, tra l'altro, voglio dirlo per il nostro amico Angelino, c'è anche l'ipotesi di riaprire la voluntary disclosure. Ma vedremo, sono tutte le ipotesi che sono sul tavolo e adesso mi dà scusa, il governo deciderà appunto con quali tempi e quali di queste misure entreranno in vigore. Oh, poi ti voglio segnalare, cercano un commissario probabilmente per il dopo Expo, ma non candidarti perché forse l'hanno già trovato. Leggi sulle pagine di Imprese e Territori, dove apprenderai tra l'altro, a proposito di Expo, è stato stimato un impatto dell'indotto Expo di 31,6 miliardi di euro, quindi un impatto di tutto rispetto. Poi ti voglio naturalmente ricordare che domani c'è Plus e anche con i tuoi due eurini leggi sempre avidamente sia le pagine di Finanza sia quelle di Plus. Ti segnalo che oggi su Norme e Tributi ci parliamo, tra le molte cose, anche di assegnazione dei beni ai soci. Tu non ne comprendi l'importanza, ti assicuro che invece c'è. E poi in ultimo, sulle pagine di Moda 24, essendo oggi venerdì, ho appreso che l'export di prodotti per le unghie, è riuscito a crescere del 16,8% l'anno scorso. Stai per cambiare il lavoro? Ma no, io ti voglio segnalare semplicemente che c'è questa interessante nicchia, che forse non è più neanche tanto una nicchia, dei prodotti per unghie. Tutto ciò premesso, ti auguro un ottimo sabato sera calcistico. Grazie. E invece una serena domenica a tutti quanti, persino a te, Alessandro. Traffico! Alessandro Milan, il gioiello más precioso della corona, ti aspetto al mio compleanno! God save the Queen! L'anno prossimo, però, 91 anni, cara regina. Come si dice cara regina? Sua maestà. Sua maestà. Her Majesty. Mi inchino. Picchio anche nel microfono. Lo devo sistemare. Allora, ringrazio anche l'ascoltatore che è in presa diretta, visto che ho letto l'anagramma di Stefano Bartezzaghi, sempre straordinario. Mi fa l'anagramma, Alessandro Milan. L'anagramma di Alessandro Milan. Andrà, mi sa, snello. Bello, potremmo lanciare un contest, mandate il vostro anagramma preferito di, non so, di Peter Bescapè, Peter come Peter, Peter Bescapè, un bel anagramma di Peter Bescapè. Va bene, allora cari ascoltatori, devo dire questa cosa, coloro che hanno rotto, strappato i libri di Salvini, libri che io non comprerò perché insomma ci sono letture credo più interessanti dell'autobiografia di un qualsiasi politico, non di Matteo Salvini, ma devo dire e il Giorno dedica una pagina a questo, i collettivi che fanno a pezzi i suoi libri, io avrei una proposta molto molto democratica, visto che imbrattare con la carta per terra tra l'altro è sbagliato, andare lì, prendere le pagine che hanno strappato e fargliele mangiare, mangiatele, cretini, dicendo anche cretini, dai su, cretino, mangia cretino. Ecco, questa è la mia modesta proposta che non verrà attuata per coloro che hanno strappato i libri di Matteo Salvini, i libri non si strappano. Trovate però molto anche del rapporto Renzi-Merkel, ovviamente, perché si sono incontrati, hanno parlato di immigrazione. La cosa che mi ha più colpito è questa, che la maggior parte dei giornali raccontano di un accordo su tutto tranne che sui soldi. Per esempio, guardate Marco Palombi, pagina 6 del Fatto Quotidiano. Renzi e Merkel d'accordo su tutto tranne che sui soldi. La Merkel dice bene il piano italiano, ma niente Eurobond. E anche il Messaggero, accordo a metà. Tra la Merkel e Renzi, ovviamente contro Vienna che chiude le frontiere o vuol chiudere le frontiere. Ecco, tutti i giornali dicono sui soldi non c'è accordo. Poi uno va a pagina 2 del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, pagina 2, il classico retroscena con la formula Renzi ai suoi, meglio di così non poteva andare. La Merkel ha dato il suo via libera anche ai soldi per l'Africa. Ma come? Tutti i giornali dicono che l'accordo sui soldi non c'è, piombi sul Corriere della Sera e invece Renzi ai suoi dice ha detto il sì ai soldi per l'Africa. Certo, poi sugli Eurobond dice di no, non mi impicco a una soluzione, come dire, però qualcosa verrà trovata come soluzione. Comunque, sta di fatto che questo è il rapporto Renzi-Merkel e lo trovate sviluppato ovviamente su tutti i giornali. Che dire? Devo dire, siamo in rapida conclusione, che Angelina Jolie è sempre più magra. Il secondo libro che dedica mezza pagina a questo è derivato dal fatto che Brad Pitt avrebbe preso una scuffia per l'attrice Marion Cotillard, per cui insomma Angelina Jolie sarebbe cornuta. Questo è il sunto molto brutale dell'intervista e questo certamente non la farebbe stare benissimo. Ma con una recidiva siamo sul giornale. Oscar Grazioli racconta dello stress per gli animali. Questo devo dire alla mia figlia, che prende sempre in braccio il mio gattino, la mia gattina, la sua gattina Zen. Dice, la prende sempre, guarda papà, la prende in braccio. No, se gli umani amano troppo i loro amici a quattro zampe, abbracciandoli, abbracciando cani, abbracciare i gatti, è un gesto di affetto, ma loro spesso non gradiscono, create stress. E il giornale dedica mezza pagina a questa cosa. Ma chi se ne frega!